Welcome administrator, medium is ready to check in. Questa puntata andiamo a guardare le carte dei runner. Questa volta non si sono regolati, fondamentalmente hanno cercato veramente di ridare una nuova vita agli Anarch e secondo me ci sono riusciti, anche se non capisco come mai abbiano continuato a stampare virus come se fosse, come dire, una sorta di caratteristica intrinseca degli Anarch. In realtà è semplicemente una caratteristica intrinseca di Noise, quella di lavorare con i virus, non è necessariamente anarchica. Ad ogni modo, andiamo a guardare con attenzione tutto quello che arriva con questo nuovo Order and Chaos. Cominciamo con Edward Kim, uno di Link. Era una nuova identità, 45-15. È un omarone con un martello. Non mi sta particolarmente simpatico perché odia i bioroidi. E comunque, e quindi ecco, insomma, è un pochettino razzista. Vuole che gli esseri umani siano comunque considerati in cima alla catena dei diritti, invece di valutare la possibilità che sia i cloni che i bioroidi abbiano la possibilità di assurgere ad una sorta di rango di esseri senzienti, in quanto tali aventi diritto come gli altri di poter vivere la loro vita. Poi chiaramente non ci stiamo a strappare i capelli perché Edward Kim ha questo atteggiamento un po' da macho insenziente, quindi andiamo avanti nell'analisi delle carte. Allora, trash the first operation you access each turn at no cost. Fondamentalmente ci dà la possibilità di trashare obbligatoriamente la prima carta a cui accediamo, quindi e deve essere un'operazione. È chiaro che se la prima carta, se faccio un multi-access, oppure se accedo più volte, che ne so, ad HQ, la prima carta che trascio è un hedge fund, sì, sono contento perché ho trashato dell'economia, però se la seconda carta che incontro è Scorched Earth, forse mi tira un pochettino in culo. Quindi molto condizionale come carta, perché comunque devo accedere a delle operation per poter triggerare l'effetto, e anche un po', insomma, un po' strutturata, un po' troppo strutturata, nel senso che comunque non mi dà la possibilità, mi dice you may trash, mi dice che devo trasciarla obbligatoriamente, quindi magari gliela volevo tenere in mano ma non posso. Ad ogni modo, non credo che sposti il meta e non farà sicuramente la differenza nei futuri tornei. Non è scarsissima, però insomma, come dire, è un po' l'exile degli Anarch, che non è scarsissimo però alla fine non vede tanto gioco. Passiamo poi a Max. Ecco, questa sicuramente farà visita in parecchi tornei, soprattutto penso parecchi primi posti o comunque podi di molti tornei. Max fondamentalmente va ad una velocità in più, perché ha 0 di Link, è un 45-15 come tutti gli altri. Identity Gmod, l'immagine è molto bella. Quando il tuo turno comincia, devi trasciare obbligatoriamente le prime due carte del tuo mazzo, ma poi peschi una carta. Quindi fondamentalmente stai lavorando con 5 click, anche se uno di questi è vincolato alla pescata. Ma quello che può sembrare un malus, cioè il dover trasciare obbligatoriamente due carte, scopriremo che molto velocemente che si rivela un bonus, nel senso che fondamentalmente noi abbiamo in mano due mani, cioè abbiamo le carte che abbiamo in mano e la disponibilità all'interno del cimitero, che aumenta esponenzialmente man mano che i turni passano, e quindi fondamentalmente abbiamo un accesso mostruoso a un sacco di carte. Vi faccio un esempio: primo turno trascio due programmi, uno di questi, che ne so, è un Iter, l'altro è Femme Fatale. Di primo turno posso fare Retrieval Run, Femme Fatale in gioco, plausibilmente con il segnalino sopra HQ, e di secondo click posso fare un Wanton Distraction, posso fare un Account Siphon e avere ancora la possibilità di rimuovermi i tag, parte sì, nel senso è veramente fuori di testa. Io personalmente penso che la proverò anche in varie modalità e questa carta vedrà gioco, non ho dubbi a riguardo. Bene, passiamo all'altra identità, che è Valencia Esteves. Allora, Valencia che cosa fa di bello? Valencia ha 0 di link, è una 50-15, quindi non è più un classico 45-15. Perché gli hanno dato questa, come dire, questa, questo handicap? Perché fondamentalmente il bonus è eccezionale, cioè la corporazione parte la partita con una bad publicity. Siamo tutti Grindle per Valencia Esteves, e Grindle è ancora più Grindle. Qual è il vantaggio? Innanzitutto la bad publicity è un credito ricorrente ogni run, cioè vuol dire che se io faccio 4 run ho virtualmente a disposizione 4 crediti ogni turno da poter utilizzare, che posso utilizzare, che ne so, per installare programmi con self-modifying code o con clone chip, oppure usare personal workshop per abbassarmi i segnalini della roba che ci ho installato sopra. Insomma, posso fare delle belle cosine con questo credito ricorrente. La cosa più bella è che mi si cominciano a innescare una serie di possibilità che prima non avevo, cioè blackmail, che può essere utilizzata solamente se la corp ha una bad publicity, chiaramente è già attiva da subito, quindi i remoti non sono più dei luoghi sacri e inviolabili se ho tanti ice non rezzati davanti. Gioco una blackmail, entro dentro il server senza dover minimamente preoccuparmi degli ice. Un altro discorso è che vedremo poi alcune di queste carte di Order and Chaos interagiscono proprio con la bad publicity in una maniera insomma anche abbastanza forte. Anche questa è una di quelle identità che io voglio assolutamente provare. Probabilmente non per ora, diciamo, non vedo spostarsi il meta a favore di Valencia Esteves, però chissà, future carte che interagiscono con la bad publicity potrebbero fare la differenza. Ah, un'altra cosa, per non parlare del fatto che una delle agenti più stronze del meta, cioè Napt, diventa veramente inscorabile, cioè diventa una 5-2 che insomma è diverso che una 4-2. Poi se le bad pub si aggiungono può mettere veramente seriamente in difficoltà tutti quei vari ne che ne giocano 3 per e che magari come chiusura possono valutare di usarla per chiudere la partita e fare da 5 a 7 punti agenda. Con una bad pub già appioppata e eventualmente nuove bad pub che arrivano, sicuramente la Napt perderà un pochettino di appeal. Detto questo, passiamo subito alle carte, e qui abbiamo veramente il tripudio del tema Anarch. Qui veramente non si sono hanno dato veramente sfogo alla migliore della loro creatività, quelli della Fantasy Flight, per quanto riguarda proprio la tematicità. Amped Up costa 1, è un evento, ti dà subito, nel momento in cui lo giochi, 3 click, quindi è un super biotic labor, e poi però ti fa soffrire un brain damage non prevenibile. È la classica tematica del mi distruggo pur di fare le run, cioè è la classica tematica dello Steam Hack, cioè è fondamentalmente lo Steam Hack dei click, detta come va detta, cioè mentre in Steam Hack ottengo dei crediti, qui ottengo dei click, e ci sta tantissimo. È super Anarch, bella, secondo me vedrà anche parecchio gioco, perché è un'esplosione di possibilità che sbilancia la corp laddove magari pensava che tu non avessi sufficienti click per poter entrare. Pensiamo a Replicate Imperfection, che si fa tutti i conti di quanti click ti servono per entrare in un server remoto, e tu così sbilanci completamente la possibilità di far fare dei conti alla corp in maniera affidabile. Passiamo a quella dopo, sempre un evento, sempre costa sempre uno. I've had worse. Ho avuto di peggio. È un evento che ti fa pescare tre carte, quindi spendi uno e peschi tre carte. Però ha un'abilità in più, passiva, cioè che triggera solo quando succede qualcosa. Quando questa carta, quindi quando I've had worse, viene trasciata da net o mid damage, pesca tre carte. Ora, qui è richiesto un pochettino di spiegazione, ovvero. Se io ti faccio Sea Source Scorched Scorched, al primo Scorched devo scartarti I've Had Worse per farti pescare tre carte. Quindi immaginiamo che io abbia una mano da 5 carte. Te ne faccio scartare le prime 4. In questa c'è un I've Had Worse, ne pesco ulteriori 3, quindi da 5 vado a 1 e poi da 1 risalgo a 4. Il tuo secondo Scorched Earth non ti serve per uccidermi, ma mi manda plausibilmente a 0 carte in mano. Il problema è se invece io ho 5 carte in mano e tu mi fai uno Scorched Earth e io ti scarto le 4 carte diverse da I've Had Worse, te ti rimane I've Had Worse in mano, la seconda Scorch mi uccide come? Cioè, non è che io appena la scarto, poi subito pesco 3 carte. Si esegue prima tutto l'effetto del mid damage di Scorched Earth, quindi la seconda Scorched Earth mi fa subito 4 mid damage, che sono il primo che mi fa scartare Red Wars e poi le altre, e poi pesco 3 carte, ma non mi servono più pescare 3 carte perché istantaneamente ho perso la partita appena vado sotto lo zero di carte in mano. Non è proprio come Plus Crit, però effettivamente può essere interessante. Anche qui, ecco, lavoriamo sullo sbilanciare la corp, cioè la corp si fa i suoi conti, ma adesso con la presenza di Red Wars può sempre temere di poter di non riuscire a ucciderti perché tu all'improvviso peschi delle carte che lui che la corp non si aspettava. Chiaramente questo però fa sì che Red Wars i mazzi che ti possono uccidere di net damage, di mid damage o anche di brain damage non possa. Ah, a parte che col brain damage non interagisce. Comunque, ecco, tutti i mazzi che ti uccidono di net o di mid damage non me lo posso giocare come se fosse un peschino. Cioè, se pesco Edwards, non lo posso usare per pescarci tre carte. Quindi, secondo me, ecco. È una buona difesa, ed è un ottimo peschino nei mazzi tipo, che ne so, tipo Ne, Astro Biotics, che sai per forza che non ti ucciderà di Scorched Earth, e quindi te la puoi giocare come peschino. Però se sei di fronte a un Wayland, sei di fronte a un Ne, che non hai visto ancora come ha sfruttato l'influenza, se sei di fronte a un Jinteki, con molta probabilità te la dovrai tenere in mano, e questo forse fa di lei una carta un po' alla Anarch, cioè un po' di quelle speriamo che non mi succeda qualcosa, un po' diciamo che ti devi prendere del rischio per riuscire a far sì che funzioni. Passiamo ad un ennesimo evento, Itinerant Protester, costa 2, questa carta non è trasciata finché un'altra current è giocata, quindi è una current. L'effetto che fa è abbassa di 1 la mano massimale della corporazione per ogni bad publicity che la corporazione ha. Quindi, fondamentalmente, se faccio il mio mazzo incentrato sul darti le bad publicity, o se sei Wayland, che è nel super modernism, sicuramente ti becchi. Se ti tiro un itinerant protester, soffri tantissimo. Notare, eccezionale la quote, la come dire, il flavor text che dice: nessuno sa cosa vogliano questi itinerant protester, meno di tutti lo sanno loro. Sono dei protestanti, diciamo, dei protestatori itineranti che loro protestano per il gusto di protestare. È bellissima, è anarchissima sta cosa. 2. Showing off. È un evento run. 2 di costo, intendevo. 2. Showing off. Evento run. Fai una run su R&D. Se hai successo, invece di accedere alle carte in cima al mazzo, accedi alle carte in fondo al mazzo. Allora, questa carta lì per lì, secondo me, non ti dà... Cioè ti dice: ma che cacchio me ne frega di accedere alle carte in fondo al mazzo? E invece secondo me è abbastanza forte, nel senso che non la metterei in 3x, però in un mazzo con un multi access, per esempio, che ne so, un mazzo che sfrutta medium, mi faccio la prima run con medium e guardo le prime, che ne so, due carte, perché vabbè, dai, diciamo che c'ho il primo virus, ce l'ho già su medium. La prima run mi guardo due carte, la seconda run mi guardo tre carte, la terza run me ne guardo 4, la quarta run gioco showing off e mi guardo 5 carte, non più quelle che ho già visto, ma 5 carte di sotto, e quindi vado a aumentare la quantità di carte fondamentalmente che ho visto. Invece di averne viste 5 complessive, ne guardo 9 complessive, il che può fare veramente la differenza fra una partita vinta e una partita persa. Per non parlare del fatto che magari in alcuni casi con, non so, Yagura o con Daily Cast, Daily Business Show può avere un effetto ancora più dirompente, perché magari, come dire, la corp non se lo aspetta. Arriviamo a una delle salsicce di questo Deluxe Expansion, cioè Wanton Destruction. Allora, è un evento run, sabotaggio. Fai una run sulla mano, sulla KQ. Se hai successo, invece di accedere alle carte, puoi spendere un qualsiasi numero di click per forzare la corporazione a trasciare una quantità di carte pari ai click che hai speso dalla mano a random, cioè a caso. Cioè non è che forzi la corporazione a trasciare delle carte che vuole lui, ma gliele peschi a caso. Gli puoi pescare agende, gli puoi pescare un pezzettino della combo. Cioè questa vuol dire che in mazzi che giocano amped up e di primo turno ti fanno un wanton destruction, ti svuotano completamente la mano e si lasciano anche un click per runnarti su archivi nello stesso turno. È veramente pesante. E chiaramente il fatto che scarti a random, secondo me, è quello che la rende un pochettino sbagliata. Cioè, secondo me, questa carta qui poteva aver senso se fosse costata invece che 1-0, ma forzava la corp a trasciare delle carte a sua richiesta. Così è veramente un auto-include per ogni Anarch. Chiaramente per ogni Anarch, ma forse anche per qualche altra fazione, perché comunque costa 4 di influenza. Dei job. Allora, dei job invece costa 1 di influenza, 2 da giocare, e ti fa spendere praticamente tutto il turno, perché costa 3 click addizionali per essere giocata. Quindi non è che ti dice spendi tutto il turno, però fondamentalmente, se non hai qualche boost da parte di qualche droguccia mescalina, non ti spendi tutto il turno con questa carta qua. Chiaramente se sei già non in grado di poter spendere questi click, non la puoi proprio giocare, perché è proprio un additional cost. L'effetto di day job è di darti 10 crediti, quindi a costo 2 ti dà 10 crediti, quindi un net di 8. Fondamentalmente ti fa un effetto stile Magnum Opus, detta come va detta. L'art probabilmente è la migliore art che c'è in tutto Order and Chaos, perché c'è Max che si spara, che fa il simbolo di spararsi in testa, perché gli rompe troppo le palle di fare il suo lavoro giornaliero. E anche la quote è molto, molto divertente. Chopbot 3000. Passiamo agli hardware. Costa 1, è un hardware, e quando il tuo turno comincia puoi trasciare una carta per ottenere che per pescare una carta oppure per rimuoverti un tag. A me piace questa carta, secondo me nei mazzi che spendono un'influenza altrove e non riescono a includere Aesop Pawn Shop potrebbe aver senso mettere un chop bot che ti alimenta la pescata. Per le tag, ma non so, se vai in tag storm perché ti fanno un mid season ti potrebbe aiutare a rimuoverti le tag, però io personalmente la vedo interessante perché comunque ti permette di pescare carte, e gli Anarch in generale non sono un granché nel pescare carte, ma sono invece molto forti a trovarsi delle carte a terra che però non gli fanno più nulla perché magari sono state consumate o cose di questo genere. In più vedremo dopo che comba abbastanza bene con un'altra carta. Archives Interface, ci aspettavamo gli archivi, l'interfaccia degli archivi da tanto tempo, è arrivata con la Deluxe, e molto semplicemente quando accedi a una carta, quando accedi agli archivi puoi rimuovere una carta dagli archivi completamente dal gioco invece di accedere agli archivi, quindi fondamentalmente quei Jackson che sono caduti lì per sbaglio oppure non lo so, delle carte che sai che vuoi che non vuoi che vengano ritirate su dagli archivi, vai tranquillo, tipo che ne so, subliminal messaging, vai tranquillo e glieli rimuovi dal gioco. Io non penso che vedrà tanto gioco, se non magari in uno pair, in un noise che vuole star tranquillo che non gli fai i Jackson che non gli ricorri Jackson che il noise è riuscito a scartarti, però boh, non la vedo giocata. Passiamo ai programmi, sono finiti gli hardware, passiamo ai programmi e adesso cominciamo subito con un bel programmino che costa 0 e 0 di memoria. Progenitor è un demone, quindi già ci aspettiamo che osterà qualcosa come tutti i demoni fanno. Infatti dice che puoi ostare un singolo programma virus che non ti consumerà la memoria, quindi fondamentalmente è una sorta di boost della memoria in un certo senso questo progenitor, perché ti assorbe la memoria di un virus, e quando i virus sono purgati il virus che hai ostato in progenitor li perde tutti tranne uno, il che vuol dire che ne mantiene uno. Ora, questa carta da sola non è che fa tanto, ma adesso vediamo subito perché è veramente un auto include in molti mazzi noise, e non solo noise forse, perché esiste questa carta che si chiama Hive Mind, costa 3, 2 di memoria, ti ruba 2 di memoria, è un programma chiaramente, ma è un programma virus, e quindi insieme a Progenitor, se la metti se metti Hive Mind sopra Progenitor, non ti consuma quei 2 di memoria. E perché dovresti giocare Hive Mind? Perché Hive Mind ottiene un virus counter su di esso quando viene installato, poi non ottiene più nessun'altra forma di virus, cioè la carta in sé non riesce ad accumulare virus, però i virus che sono presenti in Hive Mind sono considerati presenti su tutti gli altri virus che tu giochi. Quindi fondamentalmente se Hive Mind ha, immaginiamo per sbaglio, 5 virus sopra di sé, se io ti metto un Parasite, quel Parasite è considerato come se avesse già 5 virus sopra. Lo stesso per il Medium, lo stesso per che ne so, per Darwin. Quindi fondamentalmente io non ho interesse a mettere virus sugli altri virus, basta che io li metta su Hive Mind. Come ce li metto? E adesso vediamo che ci sono delle carte che mi consentono di metterle, anche solo pensando per esempio a Incubator, che è già uscita, che accumula virus piano piano nei turni e poi all'improvviso vomita tutti i virus sopra una carta che ne abbia che sia già di tipo virus, quindi fondamentalmente ti consente di poter mettere su Hive Mind un casino di virus. Un altro bel virusino programma, chiaramente costa 1 di memoria e 2 da giocare. Quando una carta installata dalla Corp viene trasciata, metti un virus counter su Gravedigger. Questo Gravedigger mi consente, spendendo un click e togliendo un virus, di far trasciare la prima carta di R&D dal mazzo della corp. Ora, ce n'era bisogno? Ma secondo me, non lo so, mi sembra veramente far piovere sul bagnato. Cioè, vi rendete conto che le ultime tre carte che vi ho raccontato sono veramente un boost della Madonna per Noise? Poi, insomma, boh, non lo so. Mi sembra veramente che vogliano, non so, potevano fare qualcosa in più per Reina Roja, che è molto bella come identità, però non ha ricevuto nulla. Boh, mi sembra che stiano un po' facendo piovere sul bagnato tutto il discorso di Noise. E arriviamo poi diciamo, passiamo oltre. Andiamo su programmi che probabilmente verranno giocati non solo in Anarch ma anche altrove. Parliamo chiaramente della nuova intelligenza artificiale ITER, che costa 4, 2 di forza. È un icebreaker, in quanto intelligenza artificiale rompe tutto, quindi rompe gli icebreaker in generale, non le singole tipologie. Costa 1 di memoria. E fondamentalmente è corroder, nel senso che avendo 2 di forza e con 1 aumenta la forza e con 1 rompe le sabrotine, fondamentalmente ha la stessa economia di corroder. Poi è chiaro che ha il suo malus, e il suo malus è che se io uso ITER per rompere anche solo una sabrotine durante la run, non potrò accedere alle carte. Non potrò accedere a più di 0 carte per il resto della run. Questo vuol dire che non accederò alle carte fondamentalmente. Ma ITER però mi aiuta a fare le successful run. E cosa mi serve per fare le successful run? Innanzitutto a alimentare i data sucker, a riuscire a far entrare gli account siphon, a far entrare, che ne so, tutto quello dove c'è scritto if the run is successful, fai questa cosa qua, viene fortemente potenziato dalla presenza di questo icebreaker generico, ma soprattutto mi serve per usare le posate degli Anarch. Non pensavo che avrei mai detto questa frase, le posate degli Anarch, però a quanto pare quelli della Fantasy Flight hanno avuto questa idea di voler associare gli ice alle posate e quindi hanno deciso che, insomma, che il cucchiaio fosse un evento che si chiama Spooned, cioè cucchiaiato, costa 2. È un evento sabotaggio e ti dice fai una run se la prima volta che rompi tutte le sabrotine di un code gate trascia quel code gate. Quindi fondamentalmente in combinazione con ITER, che mi consente di rompere le sabrotine con molta facilità partendo da 2 come forze e non avendo limitazioni di nessun tipo, se non insomma il classico costo paga 1 per rompere la sabrotine. Io con 2 ti rompo un qualsiasi code gate, insomma il primo code gate del quale rompo tutte le sabrotine. Oltre a cucchiaiato c'è coltellato, cioè knifed, che invece rompe, diciamo che uccide le barrier quando gli rompi tutte le sabrotine, e poi c'è forked, che sarebbe forchettato, e che ti consente di rompere tutte le sentry. Ora, come potersi ricordare, diciamo, dell'associazione fra sentry e tipo di carta? Non so, forchettato uccide i killer, non so perché te li inforchetti, boh, non lo so, stavo cercando un metodo per riuscire a ricordarmi bene cosa fa forked, cosa fa knifed, cosa fa spooned, ma probabilmente sarà il tempo che mi consentirà di ricordarli con facilità. Passiamo a quella dopo. È un hardware. Ah, strano. Pensavo di averli fatti tutti gli hardware. Forse ho un po' fatto casino con le carte. Comunque, Mem Strips. Costa 3. È un hardware chip. Quindi non è una console. ti dà più 3 memoria. Usa questa memoria solo per programmi virus. Ma attenzione, esattamente come la console per le carte, per le carte della scacchiera di Pred, tu a tutti gli effetti aumenti la tua memoria di 3. Poi come la devi usare questa memoria non mi interessa, però la tua memoria aumenta, e questo chiaramente comba con carte tipo Sage oppure con carte tipo Overmind. Quindi notevole che a costo a 3 tu possa aumentare la memoria di 3. Una di quelle carte che secondo me nei mazzi combo che vedono, che ne so, le varie carte che richiedono memoria libera o richiedono tanta memoria per essere giocate, vedrai che la vedremo. Un'altra carta hardware è Vigil, più 1 di memoria, è una console. Quando il turno comincia, pesca una carta se la corporazione ha carte in mano pari al suo massimo. Cosa vuol dire? Che tutte le volte che la corporazione fa l'attendista, si mette lì e si mette a fare manipolazione del mazzo tenendosi sempre al massimo, oppure fa delle gran pescate con i Jackson Howard e queste cose qui, io all'inizio del mio turno mi pesco la mia cartina. Secondo me non è proprio, cioè non è male per niente sta Vigil. Non mi piace tanto il fatto che comunque ti dia solamente un più 1 di memoria, però effettivamente costa 2, quindi non è che, cioè è veloce da giocare, mette subito la corporazione in una posizione strana di non poter avere il massimo delle carte, ma non è che la corporazione le può scartare volontariamente, le deve giocare per riuscire ad avere meno carte di quelle che ha in mano. Deve evitare di fare pescaggi con i click per cercare di avere meno carte in mano. Secondo me cioè una console molto interessante. Chiaramente non è la console per Noise, perché Noise ha Grimoire, però per un Max che già pesca molto ce la vedo bene, per un Valencia ce lo vedo ancora meglio, proprio perché poi ha quella carta che si chiama Itinerant Protesters che abbassa la mano della Corp, quindi sicuramente comba anche con quello. Io secondo me la proverò, non sono sicurissimo che sarà una cartona, però ci sono pronto a scommetterci. Passiamo alle risorse. Allora, Human First costa 1. Quando un'agenda viene scorata oppure viene rubata, ottieni crediti da quella agenda pari ai punti agenda di quell'agenda. Cioè, fondamentalmente, nella migliore delle ipotesi, che io la giochi di primo turno e che arriviamo a match point, questa carta mi dà 12 crediti. Me li dà quando, in maniera un pochettino fuori dal mio controllo, nel senso che sì, è vero, faccio il multi access e quindi magari provo a generare una situazione di controllo, ma secondo me non è una di quelle carte tanto affidabili al punto tale da vederla giocata, ecco perché ecco, poi a stroncarla definitivamente è il fatto che è comunque unica, quindi non ne posso giocare più di una copia. Va bene, questa cosa che non avevo ancora notato me la stronca definitivamente, non, diciamo che la boccio, non la proverò e probabilmente non ne vedremo tanto gioco. Liberi di smentirmi, però insomma, stiamo a vedere. Risorsa 0, Investigative Journalism, è una risorsa che comba con le bad publicity, perché la puoi installare solamente se la Corp ha almeno una bad publicity, quindi con Valencia la installi anche di primo turno, anzi soprattutto di primo turno, perché la Corp non ha avuto il tempo magari di rimuoversi la bad publicity. E con gli altri devi creare una situazione per cui metti la bad publicity. Onestamente io nelle altre non ce la vedo, questa è una carta per Valencia, non a caso anche nell'art c'è proprio Valencia che indaga, che guarda dei file con una faccia stupita, anche un po' indemoniata, devo dire. Cosa fa? Perché ci devo avere una bad publicity? Perché con 4 click e il trash di investigative journalism dai alla corporazione un'ennesima bad publicity. Che cosa vuol dire? Che la gioco magari, che ne so, di primo turno, di secondo turno lo consumo tutto per darti un'ulteriore bad publicity e ti ho messo in una situazione veramente amara, ovvero dove tutte le volte che faccio una run ho due crediti ricorrenti da poter utilizzare per rompere le subroutine. È veramente pesante, cioè chiaramente in un Valencia ne giochi 3x perché poi metti la corpa anche in una situazione di magari se c'ha qualcosa per rimuoversi le bad publicity comunque ne deve rimuovere due, e a meno che non gioca la veteran programs, l'agenda quella che a costo 3 ti dà un punto agenda ma ti come dire ti toglie due bad publicity, non è un'agendona, io non la giocherei a meno che il mazzo Valencia non fosse un tier 1 imbattibile. E, insomma, la corp si rassegna ad avere bad publicity per tutta la partita, fondamentalmente. Poi, carta ancora risorsa, molto, molto bella come tema, forse vedrà poco gioco, costa 3, si chiama Sacrificial Clone, cioè clone sacrificale. C'è Noise nell'art che consiglia a questo clone di fare delle cose e gli dice non ti preoccupare tanto, non dovrai fare l'atterraggio, alludendo al fatto che probabilmente si schianterà da qualche parte. E che cosa fa? È una classica azione Anarch, cioè mi salvo il culo ma perdo tutto, è un tutto per tutto, insomma la trasci, previeni tutto il danno, trasci tutte le gli hardware installati, tu trasci tutte le risorse non virtuali, tutte le carte nella tua mano, perdi tutti i crediti e ti rimuovi tutte le tag. Fondamentalmente ti rimangono solamente i programmi e le risorse non virtuali. Cioè, scusa, le risorse virtuali. Ma io non la giocherei. Forse vedremo qualcuno che la gioca. Tanto la vedremo solamente in Anarch perché costa 4 di influenza. E è bella, cioè, è molto bella dal punto di vista tematico. Boh, non lo so. Forse può essere interessante in alternativa. Che ne so, se vedremo che esiste dei super tag storm tipo che giocano mid season a palla e che ti affibbiano un casino di tag e ti chiudono in faccia, probabilmente può aver senso rimuoversi tutte le tag all'improvviso in risposta, diciamo, all'acquisizione delle tag. Spegne sicuramente alcuni tipi di mazzi, tipo, che ne so, i mazzi, ecco, sì, cioè i mazzi che ti possono uccidere che possono vincere solamente facendoti meat damage con gli Scorched Earth, forse possono essere spenti da questa carta. E i mazzi che ti affibbiano un sacco di tag, però veramente, cioè, vuol dire che tu perdi tutti i tuoi crediti, le tue console. Non lo so. Vediamo se vedrà gioco. Cioè, qualche possibile utilizzo c'è, però mi sembra un po' troppo radicale. Comunque, in pieno stile Anarch. Steam Dealer. Allora, Steam Dealer costa 4. È una connection, una risorsa connection. Quando il tuo turno comincia, se non ci sono se ci sono due o più power counter su Steam Dealer, li rimuovi tutti e ti becchi un brain damage. In alternativa, se questo non avviene, quindi otherwise, infatti dice alternativamente, metti un power counter su Steam Dealer e ottieni un click. Che cosa fa quindi? Ogni 3 turni ti affibbia un brain damage. Nei due turni, quindi al terzo turno ti affibbia un brain damage da quando è entrata, entra, poi entra nel turno 0, nel turno 1 ti dà un click in più, nel turno 2 ti dà un click in più, nel turno 3 ti affibbia un brain damage e svuota tutti i power counter, e quindi questa cosa va avanti a tempo indeterminato finché in qualche maniera Chopbot, per esempio, non lo trasci, o insomma Chopbot, come anche Aesop Pawnshop ti permette di vendertela. A me piace questa carta, nel senso che è in puro stile Anarch, è Secondo me è meglio di Joshua B, perché comunque l'effetto negativo te lo becchi al terzo turno e non subito prendendoti la tag. Effettivamente il costo 4 può essere abbastanza proibitivo per certi mazzi che fanno fatica magari a produrre tanti soldi, e gli Anarch in generale non sono dei gran produttori di soldi, però quel click in più ti può permettere veramente di sbilanciare la corp. Ecco, il tema generale di questo Order and Chaos, lato Anarch, quindi il lato Chaos, è veramente la possibilità di sbilanciare la corp nelle aspettative, cioè la corp non può farsi i suoi conti dicendo: mi si è aperta una finestra di scoring, adesso me la vado a prendere, perché puoi veramente inventarti di tutto. Questo è più uno sbilanciare più di carattere strategico, cioè ti cala uno Steam Dealer e la corp deve mettere in conto che nei prossimi turni tu avrai spesso 5 click, il che vuol dire un cambio di tempo notevole, insomma, nel modus operandi sia della corp che del runner. Arriviamo all'ultima risorsa virtuale, Virus Breeding Ground. Quando il turno comincia, metti un virus su Virus Breeding Ground, quindi è molto simile a Incubator. Però mentre Incubator devi sacrificarlo per poter mettere tutti i virus in un virus, invece in Virus Breeding Ground tu per ogni click che spendi muovi un virus counter che si trova su Virus Breeding Ground su un altro virus, con almeno un virus sopra di esso. Quindi diciamo è molto vincolato, però ricordiamoci sempre Hive Mind, cioè io con questa qui faccio click, metto un virus su Hive Mind, click, metto un virus su Hive Mind, click, metto un virus su Hive Mind. Improvvisamente il parasite che aveva un virus da meno 1 adesso da meno 4, perché Hive Mind, avendo 3 o più counter sopra di esso, ha potenziato i miei vari parassiti. Quindi è veramente pesante, se lasciamo che questo. Come Incubator è una di quelle carte che ti forzano a fare il purge una volta ogni tot, e qualsiasi cosa che ti forzi a fare il purge una volta ogni tot è comunque forte, non c'è poco da fare. Passiamo, con questo abbiamo finito le carte Anarch. Passiamo alle ultime carte, che sono le tre carte neutrali. Una di queste non è male, cioè Uninstall, è un evento, costa 0 e ti permette di disinstallare un programma o un hardware e te lo mette in mano. Cioè, fondamentalmente, se ho un programma installato oppure un hardware installato, posso giocare a Uninstall per rimettermelo in mano. Può essere comodo per la FEM, anche se è molto costoso, può essere comodo per Atman per risettarlo. Tutto quello che prima veniva usato, diciamo, con Scavenge, può essere buono con Uninstall. Probabilmente sarà una carta combo per il futuro, però adesso per ora è un potenziale che lasciamo lì così. Poi Kianu PT è una moto, hardware vehicle, è una specie di moto, perlomeno dall'art sembra una moto, costa 2, è un hardware, abbiamo detto. Quando il tuo turno comincia puoi perdere un click, se lo fai evita la prima tag che prenderesti fino all'inizio del tuo prossimo turno. Quindi fondamentalmente è un decoy preventivo che ti fa perdere un click. Ho la moto talmente veloce che puoi anche affibbiarmi una tag, ma tanto io sono già da un'altra parte. La vedremo giocata? Assolutamente no, perché non posso sapere se la corp mi affibbierà una tag, e se anche sapessi che la corp mi affibbia una tag, fondamentalmente mi sta semplicemente risparmiando 2, perché comunque il click lo devo spendere all'inizio del turno. Ma ci sono carte migliori per gestire le tag. Guarda, ti dirò, anche il clone è meglio di questo. Il clone sacrifica il clone, perché perlomeno sta lì e aspetta che la tag tu la riceva per essere trashato, e va bene, dà tutti quella serie di effetti pesantissimi, però è sotto il tuo controllo la situazione. Se tutti i turni devo perdere un click per potenzialmente evitare una tag, ma anche no. Arriviamo all'ultima carta, Data Folding, costa 3 è una risorsa virtuale. Quando il tuo turno comincia, ottieni uno se hai due o più MU non usate. Ora, in quei mazzi dove magari giochi una rig super streaming sita, potrebbe aver senso, nel senso, potrebbe, cioè, costa 3, ti ci vuole veramente tanto per recuperare la spesa che hai fatto. Però, ecco, in quei mazzi tipo, che ne so, che giocano il supplier, che quindi hanno dei bonus sia sull'hardware che che sulle risorse, col supplier poterci mettere magari quella che costa 3 ti dà 3 MU, ma da usare solamente per i virus, ma a te non te ne frega perché l'importante è che tu abbia 2 MU ancora non utilizzate. La metti lì all'inizio del tuo turno, te la metti in gioco, e dai turni successivi ti dà questo creditino ricorrente, no ricorrente, insomma questo creditino all'inizio turno. Ora, i mazzi come quelli che stiamo vedendo, cioè che sono molto aggressivi all'inizio, probabilmente non vedranno questa carta giocata. Se poi arriverà un mazzo runner che sacrifica l'early game per poter essere forte in mid game, mi immagino stile un Kate dei vecchi tempi, o comunque lo vedo più come una carta shaper, diciamo una carta, questo data folding lo vedo più come carta da mettere in un mazzo shaper, probabilmente potrebbe vedere il gioco. Con questo concludo Order and Chaos. Chiaramente il commento finale è: Dio bono, che carte che si sono beccati gli anarchici, soprattutto purtroppo Noise, cioè dal punto di vista dell'identità, sì, Max è veramente il Blue Sun che degli Anarch, quindi è sicuramente la carta che cambia un pochettino il modo di giocare Anarch, e potrà competere probabilmente con Noise nel vedere i tornei. Però Noise, Dio buono, si becca Hivemind, Progenitor, Virus Breeding Ground. Nel precedente ciclo si è beccato un virus fortissimo come Cash e Incubator pure, che comunque comba. Adesso Incubator probabilmente non vedrà tantissimo gioco, però sono già usciti dei bei mazzi che, sfruttando Hivemind, Progenitor e tutte le interazioni, diciamo, con i virus, fanno un effetto notevole. Se a questo effetto moltiplichiamo poi l'effetto del Gravedigger, dell'effetto intrinseco di Noise, secondo me, insomma, da questo punto di vista la Fantasy Flight non ci ha portato verso nuovi lead. Sicuramente non vedremo Max giocatissimo, a meno che non escano delle combo pazzesche per la corporazione, per cui ci sono degli eventi speciali che vanno assolutamente trashati. Però insomma anche Noise c'ha i suoi bei vecchi imp, quindi assolutamente non fa l'abilità di Valencia, di Edward Kim, non fa la differenza. Max invece sì, Max invece ha un boost della Madonna, e seppure può sembrare che questo trash due carte all'inizio di ogni turno sia pesante perché il tuo mazzo si esaurisce, in realtà hai un boost della Madonna in early game che velocizza tantissimo. E poi Iter, ragazzi, Iter è veramente l'AI definitivo, cioè tutto quello che mi consentiva, tutte le carte che mi consentono di fare delle cose quando ho accesso, quando ho una successful run, vedi, che ne so, Keyhole, ecco, Keyhole che viene sempre associata insieme a Iter, Keyhole, io trascio una carta ogni run e poi alla fine ti faccio la mega run sugli archivi, magari, che ne so, giocandoti gli spooned, i knifed e i forked, ti distruggo tutto quello che ci puoi aver messo negli archivi e poi ti faccio la run definitiva e ti vado a prendere tutto. Insomma, secondo me questo Order and Chaos sicuramente da padrone o comunque da leone la fa sicuramente il lato anarch, il lato runner, quindi la corp si difende, ma potremmo vedere un nuovo sbilanciamento verso il runner con l'avvento di queste nuove carte. E effettivamente la cosa non mi dispiace. Insomma, ci sta che ci sia un periodo in cui le corp vincono e un periodo in cui il runner vinco. Io sono un corporativo nato, però insomma sono contento quando c'è questo bilanciamento non nel momento, ma magari nel tempo, dove vediamo più vincere le corp e più vincere il runner. Con questo era veramente tutto. Grazie per l'attenzione di questi 50 minuti di sclero completo e ci vediamo di fronte a un tavolo nei prossimi tornei, che spero di riuscire a frequentare se la mia vita familiare me lo consentirà. Ad ogni modo grazie ancora e a presto. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.